puntuali, 8.03 minuti che scoccano in questo momento. La puntualità è molto importante quando si inizia un viaggio, sarebbero importanti anche le condizioni meteorologiche. Oggi non sono a nostro favore, però indubbiamente le esposizioni che andremo a presentare, oltre che a darci una curiosa realtà di viaggio, ci daranno anche un approfondimento per un sud-est asiatico che sarà ulteriore valore nella nostra rubrica Regola d'Arte. Già abbiamo la nostra esperta che oggi, certo che raggiungere in bicicletta la Birmania è un po' faticoso, però magari Anna, che è ben allenata, potrebbe dare anche questa sorpresa. Intanto buongiorno Anna. Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi riesci a portare un ulteriore approfondimento sempre legato al sud-est asiatico. Anche domani avremo protagonista l'Asia in scena per quanto riguarda l'India. Oggi però non vorrei essere troppo frettoloso, però come ho anticipato il sud-est asiatico, quindi siamo in Birmania. Esatto, siamo in Birmania perché alla Fondazione Raghianti di Lucca dal 21 di settembre fino al 3 novembre, se non sbaglio, esatto, c'è una mostra di questo artista che si chiama Shawangwongse Yaungwe. Sì, beh, tu pronunci com'è benissimo andata? Perché sei ormai ferrata in questo mondo. Mi sono allenata e riallenata. Sì. Però noi lo chiameremo Shawang. Come del resto? Come si fa a chiamare, certo, assolutamente. È un diminutivo perché chiaramente è un nome importante. È un artista esule in cui la politica, la storia della Birmania è fondamentale per una parte della sua opera. E come ripeto, è alla Fondazione Raghianti di Lucca dal 21 settembre fino al 3 novembre 2024. Per saperne di più abbiamo intervistato il direttore della Fondazione Raghianti, che è Paolo Bolpagni, che ci dà precisazione anche sul nome. Assolutamente, prima cosa che gli ho chiesto. Lo chiamiamo Shawang ed è il nome con cui è principalmente noto sulla scena artistica, ma in realtà il suo nome, che mi auguro di pronunciare con sufficiente correttezza, è Shawangwongse Yaungwe. Proviene dalla Birmania, attuale Myanmar, ma ci è stato poco perché di fatto è esule a causa appunto della terribile dittatura militare che grava da tanto tempo, appunto, salvo alcune parentesi, su quel paese. Peraltro il nonno di Shawang fu il primo presidente della Birmania liberata dal colonialismo inglese dal 48 al 62, ma poi appunto ci fu il primo colpo di stato militare, la famiglia di Shawang appunto dovette fuggire e quindi la vita di Shawang è stata un peregrinare tra i continenti, dal Canada all'Europa. E ormai da anni Shawang vive e lavora nei Paesi Bassi, ma di fatto è un esule dal proprio paese, appunto non perché abbia mai fatto politica attiva, ma semplicemente perché appartenente ad una determinata famiglia che è stata protagonista appunto delle lotte di liberazione della Birmania dal giogo tirannico della giunta militare. E questa sua vicenda personale come si riflette in parte delle sue opere? Si riflette molto a vari livelli. Anzitutto dal punto di vista iconografico, perché molte delle opere di Shawang, anche quelle esposte chiaramente nella mostra attuale alla Fondazione Raghianti di Lucca, hanno per oggetto la cultura del paese d'origine dell'artista, ma anche proprio le efferatezze della giunta militare. Alcune sono opere anche molto forti, ma è interessante vedere come Shawang, essendosi poi trasferito forzosamente in Occidente, abbia cercato di introiettare il più possibile anche la nostra cultura figurativa oltre che letteraria. Quindi per esempio il generale capo della giunta militare è dipinto come un Saturno che divora i figli di goiesca memoria, e quindi appunto spesso Shawang si rifà alla pittura di Francisco Goya, applicata però dal punto di vista iconografico con uno stile diverso per rappresentare fatti tempi molto più vicini nel tempo e vicini anche alla sua personale esperienza. Quindi sì, c'è una forte componente legata appunto a fatti reali, a fatti anche della biografia dell'artista nella sua produzione. Sapevo che questo disco capolavoro di Bob Rothman sarebbe prima o poi entrato nelle playlist in mostra. Bob Rothman, chitarrista statunitense che si avvaleva della collaborazione di artisti dal sud-est asiatico, ma non solo. In questo disco Mahima, che per me è meraviglioso, ne ha matrimonio artistico assolutamente affascinante ed è colonna sonora per questa esposizione. Ringraziando Paolo Bolpagni, che ormai è co-redattore della rubrica In Mostra con Fondazione Ragghianti nella bellissima città di Lucca. Ma come presenti un'esposizione a Lucca? Certo, le presenterò sempre, intanto per conoscere nuove culture, nuove espressioni artistiche, nuove ricerche all'interno del mondo dell'arte e della cultura stessa, e secondo me farlo con chi ne ha vissuto esperienza diretta è un motivo indubbiamente di crescita, anche per conoscere la storia di questo paese, quanto mai travagliata dal colonialismo che come eredità lascia una violenta dittatura militare, colpi di stato sanguinosi. Il nonno dell'artista protagonista è stato il primo presidente post-coloniale, poi sarà deposto con un colpo di stato. Il nipote artista sarà esule, mi pare che viva in Olanda, sì, per quanto riguarda la lettura che ne ho fatto dalla biografia. E con Paolo Bolpagni, sempre disponibile ai nostri microfoni, ha ulteriormente dato approfondimento con il paragone molto particolare con il Saturno di Goya. Esatto, sì, di Goiana. Sì, è un artista che ha ispirato molto Xiao Wang. È un dialogo con l'Occidente in questo caso. Sì, vedi? Non solo, in questo caso sì, riguarda la parte delle opere più insomma che vogliono ripercorrere il problema birmano e la questione politica, però la cultura europea fa parte anche di tutte le altre opere che invece adesso vedremo, di cui ci parlerà Bolpagni nel prossimo contributo, hanno a che fare invece con la vita dell'artista, la ricerca del capolavoro assoluto e il conflitto tra arte e vita nell'arte. Queste sono, diciamo, le due sezioni finali, più piccole ma comunque molto importanti della mostra Lucca, perché appunto Shawang, trasferitosi nel nostro continente in Europa, ha cercato appunto di recepirne la cultura e leggendo anche alcune opere letterarie fondamentali, tra queste Le chef d'oeuvre inconnu, ovvero il capolavoro sconosciuto di Honoré de Balzac, e L'œuvre, l'opera di Émile Zola, che sono componimenti letterari, un racconto, un romanzo ispirati alla figura dell'artista, al rapporto tra arte e vita, quindi appunto sono ideali per, non dico una trasposizione pittorica, ma per una meditazione pittorica sui temi oggetto appunto di queste due opere letterarie che Shawang ha reso con una grandissima originalità. E anzi, dalla visione di questi suoi dipinti, di questi suoi disegni ispirati a Balzac, ispirati a Zola, vediamo come la sua cultura origine orientale si sposa con la nostra tradizione letteraria europea, generando una fusione di grande originalità e di grande fascino, e peraltro con una tecnica pittorica veramente trascendentale, non solo pittorica, anche grafica. Quindi davvero sono esiti di enorme interesse. Bob Rotzman, lo sguardo tra Oriente e Occidente porta questo Ocean Blues che, accompagnando il disco che in precedenza ho proposto, Mahima, inserisce anche il blues e il calypso, oltre a quello che già abbiamo ascoltato più vicino al sud-est asiatico. Questo artista, Shawang, protagonista della rubrica in mostra prima parte di oggi, da espressione artistica, da quello che ho approfondito, poi mi darà conferma Anna, estremamente eterogenea di espressione sia pittorica, grafica e altro. L'ispirazione letteraria mi ha colpito molto in questa parte di conversazione con Paolo, Anna. Sì, molto. Poi su questo vorrei sottolineare una cosa che ha colpito me, che magari può interessare gli ascoltatori. Cioè, una di queste opere, che si chiama La disperata ricerca dell'artista di trovare la bellezza ideale, del 2011, è Olio su rame. E praticamente, se mi posso permettere di leggere un pezzo di descrizione, dice: la dissolvenza dell'immagine della donna dipinta da Shawang è magistralmente raffigurata con la tecnica della pittura su rame, su cui il pigmento per lenta ossidazione favorisce il disfarsi della figura sullo sfondo, travalicando così la dicotomia accademica tra disegno e colore. Deve essere bellissimo da vedere, secondo me. E anche di grande potenza comunicativa, assolutamente, per i contenuti, sì. Oltre che la bellezza estetica e la potenza del messaggio. Abbiamo conosciuto anche, anzi lo stiamo conoscendo, questo artista, stiamo conoscendo anche un periodo storico per un paese, Myanmar, ecco, lo definiamo in maniera più attuale. Prima in maniera frettolosa ho portato Birmania, però mi sarà perdonato dallo stesso Volpagni, che è sempre molto molto attento, e noi ringraziamo questi contenuti contributi perché ci danno una possibilità importante. Detto questo, nell'ultima parte di conversazione cosa abbiamo approfondito? Parliamo della mostra nel senso più preciso, cioè ci spiegherà come viene sviluppata e soprattutto ci ricorda i due curatori che io anticipo, che sono Max Zidel e Serena Calamai. La mostra è curata da Max Zidel e da Serena Calamai, è una curatela di lusso, potremmo dire. Max Zidel è uno dei più grandi storici dell'arte del mondo, è stato per molti anni professore all'Università di Heidelberg, poi a Princeton e poi per molti anni direttore del Kunsthistorisches Institut in Florenza, ovvero dell'Istituto di Storia dell'Arte tedesco del Max Planck Institut a Firenze. Quindi è veramente un'eminenza nel campo della storia dell'arte e ci onora davvero moltissimo avere una mostra da lui curata insieme con la bravissima Serena Calamai alla Fondazione Ragghianti. I due curatori appunto hanno concepito la mostra con una introduzione dove sono esposti disegni di Shawang ispirati alle incisioni di Goya dei disastri della guerra, però appunto trasposti in Birmania. C'è poi una grande sezione di dipinti ispirati proprio a Burma, che è il nome della Birmania appunto nella lingua locale, dove sono analizzati sia fatti presenti sia, come dire, elementi della cultura tradizionale birmana che stanno purtroppo apparendo in questa terribile e violenta cancellazione anche culturale, anche religiosa da parte della giunta militare, e compare per esempio la figura del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, che purtroppo dal 2021 è di nuovo in galera come prigioniera politica. E poi le ultime due sezioni appunto dedicate alla reinterpretazione da parte di Shawang dell'opera letteraria Il capolavoro sconosciuto di Balzac e dell'opera letteraria L'opera di Émile Zola, e così si conclude la mostra. Alla cloche del volo per Myanmar, Anna Cesari con l'aiuto e con la presenza fondamentale di Paolo Bolpagni ci ha portato a conoscere questo artista che denuncia un'eredità coloniale veramente cruenta, denuncia quello che è stato fino all'arrivo dei nostri giorni in Myanmar, prima Birmania, e una situazione che trasposta in arte e in comunicazione eterogenea anche con la letteratura, con la grafica, oltre che con arte pittorica e una sensibilità ulteriore, ti porta, Anna, ad essere rappresentante degli esuli. Con Ai Weiwei, ora con questo artista, hai dato voce a personaggi molto molto incisivi nella storia. Beh, dai, almeno posso contribuire in qualche modo. Vedi? E non solo politicamente. Sì, qualcosa. Certo, e come? Portiamo a termine il brano di Bob Rothman. Ti è piaciuta la colonna sonora? Moltissimo. Grazie, ma su questo gli ascoltatori lo sanno anche meglio di me quanto sei bravo in queste cose. Ma grazie, oh. Già che sono in dimensione di allargamento fisico, ho guadagnato altri 5 kg con queste parole. Quindi in conclusione diamo le indicazioni logistiche per quanto riguarda l'esposizione appena presentata. A te la parola, Anna. Sì, ricordiamo allora, si viene esposta alla Fondazione Raghianti di Lucca, è già iniziata il 21 settembre, ci sarà fino al 3 novembre del 2024. E, l'esposizione è curata da Max Zeidel e Serena Calamai, su questo mi scuso per prima che l'ho pronunciato male. Non è facile oggi la pronuncia. Mi ho fatto una serie di gaffe di pronuncia. E, è Burma, l'arte di Shawang Wongs e Yang Wei fra Birmania ed Europa. Tra pochissimo la pubblicità, poi si rientra, staremo, ci avviciniamo, conosceremo il rapporto tra l'Italia e l'immenso Henri Cartier-Bresson, che è in esposizione a Palazzo Roverella a Rovigo. A tra poco, in mostra.